Stasera come mai non ho voglia di andar via. Le luci in riva al mare, la tua pelle sa di sale, un veliero luccica nel blu. La luce fioca è tu. Mi fai sentire la voglia crescere e svegliarci accanto a noi e non sapere poi se basterà un sorriso. Sempre vestito dai tuoi mai.